Essendo il nostro senatore un uomo di Stato, non ci si poteva aspettare da lui che piangesse come tutti gli altri. Egli aveva dunque voltato le spalle a tutta la compagnia, guardava dalla finestra e pareva intento a chiarirsi la voce spettorando e a ripulire le lenti dei suoi occhiali, ma ogni tanto si soffiava il naso in un certo modo che avrebbe dato sospetto a chi lo avesse osservato attentamente. «Come avete potuto dirmi che avevate un buon padrone?» esclamò egli riaccostandosi alla donna. «Sì, certo, egli era un buon padrone, lo dirò sempre, e ottima era la mia padrona, ma non potevano fare altrimenti, non avevano più denaro, e le cose erano a tal segno che essi rimanevano a discrezione di un uomo e nella necessità di fare ogni volere di costui. L'ho sentito dire dal padrone alla signora che intercedeva e perorava in favor mio». Egli ha soggiunto che non poteva trovare altri espedienti e che le carte erano firmate. Allora ho preso il bimbo e sono fuggita. Sarei morta se me lo avessero tolto perché questo figlio è tutto il mio bene. Non avete marito? Sì, ma egli appartiene a un padrone veramente crudele, il quale in questi ultimi tempi non gli permetteva nemmeno di venire a vedermi e di più minacciava di venderlo a quelli del sud. È probabile che non lo riveda mai più. L'accento tranquillo con cui la donna proferiva queste ultime parole avrebbe potuto far credere a un osservatore superficiale che la cosa di cui parlava le fosse indifferente, ma ben altro si scorgeva nella profonda ambascia che era espressa dai grandi e neri suoi occhi. «E dove intendete di recarvi, povera donna?» disse la signora Bird. «Al Canada, se sapessi dov'è. Ditemi un poco, è assai lontano di qui il Canada?» disse alzando uno sguardo fiducioso e ingenuo verso la signora Bird. «Oh, povera creatura!» esclamò la signora Bird involontariamente. «C'è proprio da far molto cammino!» soggiunse la donna con più calore. «Oh, c'è maggior distanza di quello che vi immaginate, povera figliuola!» rispose la signora Bird. «Ma vedremo che cosa si può fare per voi. Dina, preparate un letto nella vostra camera. Frattanto, povera donna, riponete la vostra fiducia in Dio, egli vi proteggerà». La signora Bird e suo marito tornarono nel salotto. Ella sedette sulla poltroncina a dondolo dinanzi al fuoco, dondolandovisi con aria pensosa. Il signor Bird passeggiava in su e in giù per la stanza, borbottando tra sé: «Perdinci malanno, è un brutto affare!» Poi, volgendosi alla moglie, disse: «Ti avverto, moglie mia, che bisogna farla partire questa stessa notte. Quell'uomo non cesserà dal seguirne la traccia domani per tempo. Se fosse la donna sola, potrebbe rimaner quieta fino a che gli passasse oltre, ma quel diavoletto di ragazzo non lo terrebbe a freno nemmeno un esercito. Egli rovinerebbe ogni cosa col far capolino d'improvviso da una finestra o da un uscio. E sarebbe per me una bella faccenda se si scoprisse che io davo asilo ad ambedue proprio adesso. No, no, conviene che partano stanotte». «Stanotte? Ma com'è possibile? Per dove?» «Via, via, lasciami fare», disse il senatore, cominciando a rimettersi gli stivali con aria meditabonda. Ma poi, fermatesi con la gamba mezza infilata, si tenne il ginocchio con ambe le mani e parve che si desse a gravi riflessioni. È una brutta faccenda, ma brutta assai», disse egli finalmente, ricominciando a tirar su con sforzo lo stivale. «È un caso ben triste». Infilatosi il primo stivale, il senatore, seduto con l'altra in mano, parve considerare attentamente il disegno del tappeto. «Bisogna fare a questo modo, benché... Ma io vedo le cose e... alla malora!» E infilato l'altro stivale, andò verso la finestra. Ora, bisogna sapere che la piccola signora Bird era una donna prudente, una donna dalla cui bocca nessuno aveva mai udito: «Non lo avevo detto io?» E in questa occasione, quantunque bene e meglio sapesse qual forma le considerazioni di suo marito prendevano, ella prudentemente evitò di mischiarvisi e, tutta quieta sulla sua poltrona, si teneva pronta ad ascoltare le intenzioni del suo signore quando egli stimasse bene di manifestargliele. «Ecco», egli disse, «c'è un mio antico cliente, Van Tromp, venuto dal Kentucky, il quale diede la libertà a tutti i suoi schiavi. Egli comprò una tenuta a 7 miglia dalla cala, là in fondo ai boschi, dove nessuno passa mai quando non ci vada appositamente. Quivi ella rimarrà al sicuro, ma il male è che nessuno, eccetto me, potrebbe guidare colà stasera la carrozza». E perché? Chiujò non è un ottimo cocchiere? Sì, ma ecco la difficoltà. Bisogna attraversare due volte la cala e la seconda volta si corre gran pericolo se non si conosce il passo come lo conosco io, che vi sono passato 100 volte a cavallo. Perciò vedi bene che non c'è modo di fare altrimenti. Bisogna che Chiujò verso la mezzanotte, quieto, quieto, attacchi i cavalli e io condurrò la povera donna. Per mascherare meglio la cosa mi fermerò alla prossima osteria dove cercherò della corriera quotidiana che va a Colombo e che giunge colà verso le 3 o le 4, cosicché potranno credere che io abbia preso il mio legno soltanto per quella gita. Sarò di buon mattino alle mie faccende, ma temo di mettermi in un bell'imbroglio dopo quanto è stato detto e fatto. Oh, insomma, sarà quel che sarà. Non posso uscirne in altro modo. Ah, oh, il vostro cuore migliore della vostra testa, John, disse la moglie, ponendo sulla fronte di lui la sua candida e piccola mano. Avrei potuto amarvi se non vi avessi conosciuto meglio di quanto vi conosciate voi stesso. E quella donnina appariva sì leggiadra con le lacrime splendenti negli occhi che il senatore tenne per fermo d'essere un grand'uomo, per aver saputo ispirare a quell'amabile creatura sentimenti di ammirazione così calda. Che poteva dunque fare se non andare gravemente a vedere se la carrozza fosse in ordine? Giunto alla porta, si soffermò e tornando indietro disse con qualche titubanza: Maria, non so che cosa tu ne pensi, ma quel cassettino pieno di robe del povero Enrichetto. E così dicendo, gli diede una voltata e si serrò l'uscio dietro. Sua moglie entrò in una piccola stanza da letto, attigua alla sua, prese un candeliere, lo posò sul cassettone, indi trasse fuori una chiave da un piccolo ripostiglio. Con aria pensosa la infilò nella toppa e subito si fermò, senza avvedersi che i due ragazzetti la seguivano, taciti e con tanto d'occhi per la curiosità. Oh madri che qui leggete, non c'è nella vostra casa una cameruccia o un cassettino che vi abbia fatto provare nell'aprirli ciò che avreste provato riaprendo una tomba? Oh madri felici, se un tal caso non vi avvenne. La signora Bird aprì lentamente il cassettino. Vi erano piccole vesti di varie fogge e tagli, mucchi di grembiulini, di calzettucce, anche un paio di scarpette consumate alla punta e ai talloni che uscivano da un piccolo involto di carta. V'eravi un cavalluccio di legno, una piccola carretta, una trottola, una palla, memorie raccolte con lacrime e spezzamento di cuore. Ella sedette dinanzi al cassettino e col capo nelle palme lasciò scorrere il pianto. Poi, alzando d'un subito il capo, cominciò a scegliere con nervosa precipitazione gli oggetti più conservati e utili a farne un fagottino. Mamma, disse uno di quei fanciulli piano piano toccandole il braccio, tu vuoi regalare queste cose? Miei cari, disse ella con voce soave e dignitosa a un tempo, se il nostro amato Enrichetto ci guarda di lassù, deve essere contento, non avrei il cuore di donarle a una madre che fosse lieta e felice, ma le donerò a una madre più afflitta e più infelice di me, e spero che Dio le accompagnerà nella sua benedizione. Esistono a questo mondo anime benedette, le cui pene sono una fonte di gioie per gli altri, e se si consolano della perdita delle loro speranze terrene, spargendo con le loro lacrime un balsamo salutare sulle piaghe degli afflitti. Di questo numero era la sensibile donna che, seduta al chiarore della lampada, con gli occhi pieni di lacrime, preparava per la povera fuggitiva queste memorie del figlioletto estinto. La signora Bird schiuse poi l'armadio, ne trasse fuori 2 o 3 vestiti usati ma ancora in stato di servire, e seduta dinanzi al suo tavolino da lavoro si mise a farvi le modificazioni occorrenti, come il marito le aveva suggerito, fino a che al vecchio orologio dell'angolo scoccò la mezzanotte e uno strepito di ruote si udì alla porta della casa. Maria, disse il marito, sopraggiungendo col pastrano sul braccio, fatela alzare, bisogna partire. La signora Bird si affrettò a collocare in una valigetta le varie cose che aveva radunate e, chiusala a chiave, pregò suo marito di metterla nella carrozza, poi corse a chiamare la straniera. Questa, coperta d'un mantelletto, d'un cappello e di uno scialle che avevano appartenuto alla sua benefattrice, comparve sull'uscio pochi istanti dopo, col suo bimbo tra le braccia. La signora Bird l'accompagnò fino al marciapiede e il signor Bird la fece entrare precipitosamente in carrozza. Elisa si sporse tutta in fuori e stese la mano, una mano morbida e ben fatta come quella che le si offerse in ricambio. Fissò i grandi e neri occhi pieni di ardente espressione di gratitudine in volto alla signora Bird e parve che volesse parlare. Le sue labbra si mossero e la si provò due o tre volte, ma non ne uscì alcun suono. Allora ella alzò le mani al cielo, accompagnando questa mossa con uno sguardo eloquente, e si lasciò ricadere sopra il sedile, coprendosi il viso con le palme. Lo sportello si chiuse e il legno partì. Qual condizione era quella per un senatore patriota che aveva speso tutta la settimana a stimolare il potere legislativo del suo Stato a ciò che prendesse le più energiche determinazioni contro coloro che ospitano e soccorrono gli schiavi fuggitivi? Il nostro buon senatore, nel discorso fatto in quell'occasione al congresso di Washington, non era stato superato da alcuno dei suoi colleghi in questa sorta di eloquenza che diè loro una fama immortale. Quanto era sublime nell'atteggiamento allorché, seduto con le mani nelle tasche, riandava con ironia le sentimentali debolezze di coloro che avrebbero voluto anteporre il bene di alcuni miserabili vagabondi ai grandi interessi dello Stato. Egli era riuscito a convincere potentemente non solo se stesso, ma anche tutti coloro che l'udivano. Allora, però, l'idea di un fuggitivo era unicamente l'idea delle lettere che compongono questa parola, o tutt'al più la ricordanza di un'incisione vista in un giornaletto e rappresentante un uomo che porta un fagottino all'estremità di un bastone sulla spalla. Con queste parole al di sopra, fuggito dalla casa del sottoscritto, coi connotati e la ricompensa da darsi a chi consegnasse vivo o morto il tapino. La forza magica della presenza reale della sventura, gli sguardi supplichevoli, la mano tremante di una creatura derelitta, l'invocazione disperata dell'agonia, erano cose che egli non aveva mai viste né udite. Mai gli era venuto in mente che un fuggitivo potesse essere una debole madre, un fanciullo senza difesa, come quello che ora portava le vesti ben conosciute del suo figlioletto estinto. E perciò, non essendo egli di marmo né di ferro, ma di cuore nobile e retto, si trovava in una condizione molto difficile per il suo zelo di patriota. Del resto, se il nostro ottimo senatore trasgrediva la legge, se con la pratica era in contraddizione col suo voto, trovavasi bene in via di espiare il suo peccato con una notte di penitenza. Era in quei giorni caduta tanta pioggia che il fertile terreno dell'Ohio ne rimaneva oltremodo inzuppato. Eppure quella strada era, per così dire, una via ferrata del buon tempo antico. Di grazia, che sorta di strada può essere questa? Dirà qualche viaggiatore dell'est abituato a connettere alle parole via ferrata l'idea di un moto pari e spedito. Sappi dunque, o ingenuo amico o amica orientale, che in queste infelici regioni dell'ovest, in cui il fango è di un grado profondissimo, tutte le strade sono fatte di grossi tronchi d'albero collocati gli uni accanto agli altri e ricoperti nella loro nativa rozzezza di terra, di sabbione o d'altro. Quelli del paese le chiamano allegramente vie e si ingegnano di farvi scorrere i loro veicoli. La pioggia, a poco, muove tutto ciò che ricopre i tronchi e disunisce questi qua e là, formando una varietà singolare di affondamenti e di melma. Sopra una strada simile, il nostro buon senatore si avanza, proseguendo le sue considerazioni morali per quanto glielo possono permettere le ineguaglianze del terreno. Ora la carrozza fa un tale sbalzo da temere grandemente per la sua solidità. Ora affonda le ruote nel fango, pende di qua, si inclina tutta di là e costringe il senatore, la donna e il fanciulletto a prendere le più svariate positure. A un tratto il legno si ferma. E Chiuggio dal sedile esterno fa un grande schiamazzo per rimettere i cavalli in cammino. Dopo un lungo tirare e spingere inutilmente, il senatore sta per perdere la pazienza, ma ecco che la vettura dà un crollo improvviso. Le ruote anteriori si affondano in un altro affondamento e il senatore, la donna e il bambino cadono alla rinfusa sopra il sedile dinanzi. Il cappello del senatore si è calcato scortesemente sugli occhi di lui, il fanciuletto strilla, Chiu-Jo si affanna in discorsi eloquenti diretti alle sue bestie, che tirano calci, si dibattono e si sforzano sotto le frustate. E finalmente il tristo passo è superato, il legno scorre come può, il senatore si riaggiusta il cappello, la donna si rassetta, il fanciullo si acquieta. Per qualche tempo ancora la carrozza continua a soffrire scosse violente e trabalzamenti improvvisi, poi i nostri viaggiatori cominciano a respirare, vedendo che le cose prendono un miglior aspetto. Alla fine, ecco che la vettura rallenta la corsa, scende con uno sbalzo retto e perpendicolare ed un colpo si ferma. Chiu-Jo comparisce allo sportello. Se non vi increscia, signori, la via è terribilmente cattiva da questa parte. Non so in verità come potremo uscirne. Il senatore mette un piede fuori della carrozza e cerca, titubando, un punto non cedevole. Si prova e il piede gli affonda oltre misura. Vuole ritrarlo, perde l'equilibrio e cade nella motta, donde Chiu-Jo lo rialza in uno stato deplorevole. Non diremo altro per la pietà che abbiamo dei lettori. Chi viaggiò nelle terre occidentali e talvolta fu costretto a ingannare le ore della notte affastellando tronchi e ramoscelli per far passare la sua carretta sopra gli affondamenti, proverà di certo una rispettosa e triste simpatia per il nostro eroe sventurato. Noi vi chiediamo, lettrici, di versare una lacrima in silenzio e di passare oltre. La notte era già molto inoltrata quando il legno si fermò, tutto sgocciolante e inzaccherato, alla porta di una vasta fattoria. Non ci volle poca perseveranza ad estarne gli abitatori, ma alla fine il rispettabile proprietario aprì la porta. Era questo un uomo alto 6 piedi almeno, grosso e rude, coperto di un giubbone di flanella rossa, una folta capigliatura color di canapa bruna, mal cardata anziché no, e la barba da più giorni crescente davano a quell'individuo un'apparenza non molto gradevole. Egli restò per un attimo immobile col candeliere in mano, squadrando i nostri viaggiatori con aria tra sbalordita e disgustata, che era del tutto comica. Mentre il nostro senatore si sforza a fargli intendere di che si tratta, noi brevemente procureremo di presentarlo ai nostri lettori. L'onesto e rispettabile John Van Tromp era in addietro un ricco proprietario e possessore di schiavi nello stato del Kentucky. Non avendo dell'orso se non la pelliccia ed essendo dalla natura dotato di un cuore grande, leale e giusto, proporzionato in certo modo alla sua statura gigantesca, egli era stato per alcuni anni testimone, con mal repressa ira, di un sistema ugualmente cattivo per l'oppressore e per l'oppresso. Alla fine, un bel giorno, il cuore di John divenne troppo grande per poter più a lungo portare i suoi legami ed egli trasse dal suo scrigno il portafogli e si condusse nello stato dell'Ohio, dove comprò una grande estensione di terreno buono e fertile. Indi affrancò regolarmente ciascuno dei suoi schiavi, uomini, donne, fanciulli, e li trasportò e stabilì nella sua tenuta. Poi si raccolse a vivere in una fattoria solitaria per abbandonarsi in pace alle sue meditazioni. Siete voi l'uomo cui basti l'animo di dare asilo a una donna e a un fanciulletto inseguiti da cacciatori di schiavi? Domandò il senatore francamente. Credo veramente di sì, rispose l'onesto John in modo significantissimo. Così pareva anche a me, soggiunse il senatore. E se qualcuno viene, ripigliò il brav'uomo, drizzando la sua persona muscolosa e alta, io sono pronto a fargli la debita accoglienza. Ho 7 figli con me che hanno 6 piedi ciascuno d'altezza, né saranno pigri a ricevere chi che sia. Fate i nostri complimenti a coloro che volessero venire, dite loro che saranno ben ricevuti. Così dicendo, John si passò le dita fra i capelli e diede in uno scroscio di risa. Spossata e abbattuta d'animo, Elisa si strascinò fino alla porta, recandosi in braccio il fanciulletto profondamente addormentato. Il burbero John appressò il candeliere al viso di lei e con un fremito di compassione aperse l'uscio di una cameretta attigua alla cucina, dove allora si trovavano, e fece cenno alla giovane di entrarvi. Accese un altro candeliere, lo pose sulla tavola, indi, rivoltosi ad Elisa, le disse: Ora ascoltate, figliuola mia. Non dovete aver mai un briciolo di paura, chiunque venga, io sono avvezzo a tal sorta di affari. Soggiunse additando le 2 o 3 carabine sospese al caminetto. E la maggior parte delle persone che mi conoscono sanno bene che non farebbe loro gran pro il tentare di prendere alcunché in casa mia quando ci sono io. Dunque andatevene pure a letto e state tranquilla, come se la mamma vostra vi cullasse. Indi uscì e chiuse la porta. Questa donna è di una bellezza non comune, disse al senatore. Oh sì, le belle giovani hanno tutta la ragione di cercare uno scampo qualora provino taluno dei sentimenti che sono propri d'ogni donna onesta. Il senatore gli narrò allora in poche parole la dolorosa storia di Elisa. Possibile? Che sento mai? Andava esclamando il brav'uomo con la più viva compassione. Oh, povera figliuola, cacciata come un daino, costretta a fuggirsene perché nutre sentimenti umani, perché ha fatto ciò che nessuna madre potrebbe astenersi dal fare. Oh, in verità sono cose da trarmi fuori dai gangheri. E l'onesto John, così dicendo, si asciugava col rovescio della mano ossuta e ingiallita una lacrima sopra la guancia. Sappiate, straniero, egli continuò, che io stetti anni e anni prima di unirmi a una chiesa appunto perché i ministri dei nostri paesi predicano che la Bibbia approva tutte queste cose. E siccome io non capivo sillaba del loro greco e del loro ebraico, lasciai da parte essi e la loro Bibbia, ma un bel giorno incontrai un ministro il quale sapeva più di loro e del loro greco ed egli mi insegnò tutto il contrario. Allora compresi il vero e feci parte di una chiesa, è un fatto. E mentre parlava, John erasi affaticato a levare il turacciolo di una bottiglia di spumeggiante sidro di cui offerse un bicchiere al senatore. Fareste pur bene a rimanere qui fino a giorno, gli disse. Non ho che da chiamar la vecchia, in 2 minuti il letto è pronto. Grazie, amico mio, rispose il senatore. Devo proseguire la mia strada per prender posto nella Corriera di Colombo. Ah, bene, se non potete fermarvi, farò un tratto di cammino con voi per mostrarvi una strada migliore e più breve di quella che avete tenuta nel venire. John fu subito pronto e, presa una lanterna in mano, fece da guida alla carrozza del senatore. Al momento di separarsi, il senatore pose un biglietto di $10 nella mano di John, dicendo in fretta: È per lei. Va benissimo, rispose John, e datisi una stretta di mano, si separarono. 10. Trasporto della merce. Era sorta un'alba rossastra e piovigginosa e la sua debole luce rischiarava nella capanna dello zio Tom, visi abbattuti, immagini della tristezza di quei desolati cuori. Dinanzi al focolare erano stese sulla spalliera di una seggiola un paio di camicie ruvide, ma di recente lavate. Più in là, ritta dinanzi a un tavolino, la zia Chloe ne stirava un'altra col ferro caldo e spesso si portava la mano al viso per asciugare qualche lacrima che le scorreva sulle guance. Le era seduto accanto con la Bibbia aperta sulle ginocchia e la testa appoggiata a una mano. Tacevano entrambi. Era di buon mattino, i fanciulli dormivano ancora nel loro rozzo lettuccio. Tom possedeva un cuore tenerissimo e nutriva quei domestici affetti che, per maggiore sventura, sono uno dei tratti caratteristici della sua infelice razza. Egli sorse in piedi e, avvicinatosi ai suoi figli, stette lungamente a guardarli in silenzio. È l'ultima volta, disse. La zia Chloe non rispose. Il suo ferro passava e ripassava ancora più alacremente sulla ruvida camicia, fatta già tanto liscia quanto si poteva. Poi, smettendo improvvisamente, con un atto da disperata, si gettò a sedere dinanzi alla tavola e disse piangendo: So bene che bisognerà darsi pace, ma Signore iddio, come si ha da fare? Sapessi almeno dove vai e come sarai trattato. La signora accerta che fra un anno o due ti ricomprerà. Ma nessuno ritorna di laggiù, vi ammazzano. Ho sentito ben io raccontare come li trattano nel sud. Lo stesso Dio che è qui, Clo, vorrà assistermi colà pure. Lo spero bene, disse la zia Clo, ma iddio permette talvolta cose terribili e a questo pensiero io non posso trovar consolazione. Mi pongo nelle mani del Signore, soggiunse Tom. Nulla si può fare all'infuori di quello che egli permette. E poi, di una cosa io debbo ringraziarlo ed è che io solo sia stato venduto e non già tu o i figli. Voi siete qui al sicuro. Quello che avverrà non avverrà che a me e Dio, ne sono persuaso, non vorrà negarmi aiuto. Tom parlava concitato e come se una mano gli stringesse fortemente la gola, ma la sua parola era ferma. Egli tratteneva l'esplosione del suo rammarico per non accrescere quello della sua famiglia. Beh, pensiamo ai benefici che riceveremo dal cielo, soggiunse con voce tremante, come se avesse bisogno di pensarci molto in quel momento. Benefici? Esclamò la zia Clo. Benefici? Non saprei quali. È pur cosa ingiusta. Sì, veramente ingiusta. Il padrone non avrebbe mai dovuto consentire che tu fossi venduto per pagare i suoi debiti. Tu gli fruttasti già due volte più di quanto ebbe a sborsare per averti. Non doveva metterti in libertà. Non avrebbe dovuto far ciò da gran tempo. Sarà vero che egli non trovasse altro mezzo per uscire dalle difficoltà, ma tant'è, io dico che questa è una grande ingiustizia. E nessuno me lo potrà cavare dalla testa. Trattare in tal modo un fedele servo che anteponeva in tutto i vantaggi del suo padrone ai suoi propri, e che lo amava più di sua moglie e dei suoi figli, a costoro che vendono in tal guisa l'affezione e il sangue del cuore degli altri per togliere d'impaccio se stessi, Dio ne domanderà stretto conto. Basta, Clo. Se tu mi ami, non parlare così, mentre è forse l'ultima volta che discorriamo tra noi. Vedi, Clo, mi trafigge l'anima un solo detto pronunziato contro il mio padrone. Non fu egli messo nelle mie braccia, piccino? Non è ben naturale che io pensi a lui prima di ogni altra cosa? E si può mai credere che io non gli sia sempre grato dell'affetto che gli ebbe per me? I padroni sono avvezzi ad avere da noi tutte queste cose e naturalmente non ne fanno gran caso. Bisogna farsene una ragione. Ma paragona il nostro padrone con altri. Dov'è uno schiavo che abbia avuto trattamenti migliori di quelli che io ebbi finora? Io sono certo che non avrebbe lasciato giungere le cose a questo punto se avesse potuto prevederlo. Ah, tu hai un bel dire, vero? Ad ogni modo è male, rispose la zia Clone, il cui petto predominava un sentimento ostinato del giusto e dell'ingiusto. Non saprei ben dire in che, ma sento che c'è del male. Ne ho la certezza. Dovresti innanzitutto guardare in alto verso colui senza il quale non può cadere un solo capello dalla nostra testa. Beh, ciò non è bastevole a confortarmi. Eppure dovrebbe esserlo, disse la zia Clo. Ma che pro parlarne? Oh, la focaccia è cotta e farò meglio a imbandirti la colazione perché nessuno sa quando ne avrai un'altra. Per ben giudicare dei patimenti a cui vanno soggetti i neri venduti negli stati meridionali, situati presso la foce del Mississippi, conviene rammentarsi che tutti gli affetti istintivi di questa razza sono singolarmente profondi. L'amore che prendono ai luoghi in cui vissero è di una meravigliosa tenacia. Essi non sono per natura né arditi né intraprendenti, ma casalinghi e amorevoli. A questa disposizione si aggiungano i terrori che l'ignoto ispira ad essi e l'abitudine che ai neri si dà fin dalla loro fanciullezza di credere che il venderli per il sud sia il più tremendo castigo. La minaccia di scendere giù per il fiume reca ad essi maggiore spavento che quella della flagellazione o della tortura. Noi li udimmo più volte esprimere un tal sentimento e vedemmo l'ingenuo terrore con cui narrano, nelle ore di riposo, le atrocità che si commettono di là dal fiume, in quel paese che è per essi l'ignota terra donde mai non torna pellegrino vivente. Un missionario che dimorò fra gli schiavi fuggitivi nel Canada riferisce che parecchi di costoro confessano di aver preso la fuga dalle case di padroni piuttosto umani e discreti, ma che a quel passo pieno di pericoli erano stati indotti quasi sempre dal disperato orrore con cui considerano l'essere venduti agli abitanti del Mezzodì. Minaccia che ogni ora pende sul capo loro e su quello delle loro mogli e dei loro figli, e ciò infonde nell'africano, paziente per natura, timido e mite, un coraggio eroico e lo muove a sfidare la fame, il freddo, gli stenti, i pericoli del deserto e quelli più terribili ancora che lo aspettano qualora sia preso. Il semplice pasto del mattino già fumava sopra il desco perché la signora Shelby aveva quel giorno esonerato la zia Clo dal consueto servizio della casa dei padroni. La poveretta aveva messo in opera tutta la forza d'animo che le restava nel preparare quella colazione d'addio. Aveva tirato il collo al suo miglior pollastro e manipolato focacce di farina con tutta la possibile esattezza e secondo il gusto di suo marito. Sull'asse della cappa del camino v'erano misteriosi orcioletti pieni di confetture che non si vedevano comparire se non nelle occasioni solenni. «Guarda, Pietro!» disse Mosè, tutto gongolante di gioia. «Questa sì che è una stupenda colazione!» E così dicendo, la ghiottoneria gli faceva afferrare un pezzo di pollo. La zia Clo gli diede una sonora ceffata. «Vedi, Mo, che bel garbo!» disse ella. «E si ardisce toccare l'ultima colazione che questo povero babbo ha ad avere in casa nostra!» «Oh, Clo!» fece Tommy in atto di dolce rimprovero. «Ahimè, non so più in che mondo mi sia!» esclamò ella, nascondendosi il viso nel grembiule. «Mi sento così turbata che non posso reprimere le maniere villane!» I fanciulli stavano muti, guardando ora il padre, ora la madre, mentre la bambina, aggrappandosi alle vesti della mamma, mandava strilli acutissimi e imperiosi. «Oh, via via!» disse Clo, tergendosi gli occhi e prendendo la fanciullina sopra le sue ginocchia. «Spero che sia finita ora. Assaggia, caro mio, qualche cosa. Questo è il mio miglior pollastro. Su, via, ragazzi, ne avrete anche voi, povere creature. La vostra mamma è stata dura con voi.» I fanciulli non aspettarono un secondo invito e con grande zelo si gettarono sopra le vettovaglie e fu bene perché senza di loro probabilmente la colazione sarebbe rimasta tutta intera come fu deposta sopra la tavola. «Adesso bisognerà che io metta in ordine tutti i tuoi abiti», disse la zia Clo, che si dava un grande affare. «Già, lo stesso che niente, lo so. Ben conosco quella gentaglia abietta come il fango. Ecco qua i tuoi corpetti di flanella per preservarti dal reuma. Abbine gran cura perché nessuno te ne farà più quando saranno logori. Ecco le tue vecchie camicie ed eccone là alcune nuove. Ho finito ieri sera queste calze e dentro ho messo il gomitolo per accomodarle. Ma chi te le accomoderà?» E la zia Clo, conturbata nuovamente, appoggiò la testa sopra la cassa e si pose a singhiozzare. «Ah, non posso pensarci! Nessuno più prenderà cura di te, malato o sano! Ma come, come farò ad essere buona con costoro d'ora innanzi?» I fanciulli, fatte sparire le ultime tracce della colazione, incominciavano a prender parte a ciò che avveniva nella capanna e vedendo piangere la madre e stare in profonda tristezza il padre, si posero a piagnucolare anche loro.